Il graffio di Dario Ceccarelli. È arrivata la fine del mondo ed ho speso tantissimo. Questa volta coi Maya c'è andata bene. Ma adesso chi ci salva più dalla campagna elettorale? Non c'è più niente da fare. L'italiano aveva la febbre anche alta e non si poteva curare con una semplice aspirina. Noi testardamente continuiamo a rinunciare alle vacanze. E non c'è una sola trasmissione in 25 anni delle mie televisioni che sia andata dichiaratamente contro la sinistra. La vita ci ha regalato qualcosa che il tempo non cambierà mai.